Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e benvenuti, sono Enzo Sergante e vi porto in viaggio sul nostro ferry boat per incontrare il mondo del no profit, il mondo della responsabilità sociale d'impresa. Partiamo subito con un appuntamento con la musica classica, quindi un evento di grande nobiltà, un evento che ha ovviamente fini di beneficenza. Domani c'è un appuntamento, il primo della serie, si chiama Prove aperte della Filarmonica della Scala, quindi siamo a Milano, c'è il maestro Costantinos Karidis, che dirige Tchaikovsky e Shostakovich. Appuntamento alle 19.30, i proventi di questa pomeridiana andranno all'associazione presieduta da Don Gino Ricoldi, si chiama Comunità Nuova. Don Gino Ricoldi è il cappellano dell'Istituto Penale per i Minorenni. Continuiamo a parlare di minorenni, questi sono davvero molto piccoli, bambini. Ci sono quasi 11 milioni di bambini, di cui 932 mila sono stranieri residenti e 1 milione 756 mila vengono definiti da questo studio di Save the Children in povertà relativa. Che cosa vuol dire povertà relativa? Lo chiediamo a Raffaella Milano, che è responsabile dei programmi Italia-Europa di Save the Children Italia. Buongiorno Raffaella Milano. Buongiorno. La condizione di povertà relativa è la condizione vissuta da chi non raggiunge un livello di consumo accettabile per quanto riguarda la qualità della vita di un paese, quindi nel nostro caso l'Italia, che ha un po' un triste primato in Europa proprio perché è uno dei paesi in cui la povertà minorile è tra le più dure, la più difficile. Abbiamo sia minori in condizioni di povertà relativa, ma anche una quota di minori classificata in povertà assoluta, cioè bambini che non riescono ad avere quei beni minimamente necessari per vivere una vita dignitosa, così viene definita la loro condizione. È uno dei tanti dati dell'Atlante dell'infanzia che voi avete pubblicato. Che cos'è esattamente, in pochissimi secondi, l'Atlante dell'infanzia? C'è una serie di mappe che riguardano la condizione dei diritti dei bambini e dei ragazzi che vivono nel nostro paese. Ci danno uno spaccato di un'Italia fatta di tante Italie diverse, per la povertà, per la possibilità di fruire di verde pubblico, per i servizi, per la spesa sociale, e quindi per noi è soprattutto un piano di lavoro su quello che va fatto per garantire dei diritti elementari a tutti i bambini e gli adolescenti che sono in Italia. Grazie Raffaella Milano. Continuiamo a parlare di bambini, di libri in questo caso, dal WWF Un Oceano in Bottiglia. L'associazione ha realizzato il fascicolo didattico che serve a correlare la seconda avventura della serie Oceano in Bottiglia. Questo libro si chiama Fino all'ultima mosca ed è di Annalisa Strada. Fra l'altro, con questo libro ha vinto il premio Gigante delle Langhe, che è il premio nazionale di letteratura per l'infanzia. Il libro è stato pubblicato in questi giorni. Torniamo al tema del volontariato. Il giovedì prossimo a Roma la Fondazione IBM, presso l'Associazione Civita, propone un evento che parlerà di imprese, di volontari, di comunità. IBM Service Jam si chiama ed è un evento interattivo globale sul volontariato. Che cos'è un evento interattivo globale che si chiama Jam? Ci risponde Angelo Failla, direttore della Fondazione IBM. In effetti il Jam è una metodologia che è stata messa a punto da qualche anno da IBM per consentire appunto eventi collaborativi, una sorta di brainstorming globale utilizzando le tecnologie della rete. Questo Jam è già avvenuto per 72 ore qualche mese fa, esattamente a metà ottobre dello scorso anno. Migliaia di persone accomunate dall'interesse verso i temi del volontariato e di impegno verso la comunità hanno avuto modo, grazie appunto a questa iniziativa promossa dalla IBM, di interagire, confrontarsi, proporre nuove idee, verificare ipotesi di sviluppo in quest'area che è di cruciale importanza per lo sviluppo di tutti i nostri paesi, e i risultati preliminari di questo GEM verranno appunto discussi in un workshop dedicato all'argomento la prossima settimana. Giusto per dare qualche indicazione, durante queste 72 ore oltre 15.000 persone di 119 paesi nel mondo hanno potuto interagire tra loro, si sono confrontate e hanno individuato anche possibili linee di sviluppo del volontariato, sia esso di impresa o meno, ma comunque sempre attinente a un settore che fortunatamente, io dico, è in costante crescita. Grazie. Di quanto è importante per lo sviluppo dei paesi. Grazie Angelo Failla, direttore di Fondazione IBM, a risentirci. Ringrazio anche i nostri ascoltatori. Ferribotto, @radio24.it è l'indirizzo a cui potete scrivere per segnalare le vostre iniziative di responsabilità sociale e di no profit. Vi ricordo che Ferribotto va in onda il sabato alle 6.50 e alle 13.55, la domenica alle 6.50 e alle 14. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia.